6. Ascolta e controlla. 1. Siate realisti. Chiedete l'impossibile. Siano realisti. Chiedano l'impossibile. 2. Non abbiate paura di avere coraggio. Non abbiano paura di avere coraggio. 3. Dite sempre ciò che pensate. Dicano sempre ciò che pensano. 4. Date il massimo in ogni situazione. Diano il massimo in ogni situazione. 5. Fate sempre del vostro meglio e state sempre attenti. Facciano sempre del loro meglio e stiano sempre attenti.